Siamo a martedì 21 ottobre 2008 e vogliamo parlare delle fonti dell'opera di Boris e quegli elementi che hanno influenzato la genesi del tuo pensiero, con le limitazioni che tu farai in dettaglio. E abbiamo deciso di partire di una citazione che abbiamo trovato di comune accordo, assai bella. Corrisponde alla prefazione del Tractatus Logico-Philosophicus, nel quale Wittgenstein prende una posizione che tu dici che praticamente ti ha copiata alcuni anni prima che tu nascesti, naturalmente, ma quello è una roba relativamente, diciamo, poco importante, nella quale viene a dire letteralmente: non voglio giudicare in quale misura i miei sforzi coincidano con quelli di altri filosofi. Difatti, ciò che ho scritto qui non pretende alla novità. Perciò non cito nessuna fonte, poiché mi è indifferente se ciò che ho pensato sia stato pensato da qualcun altro prima di me. Dopo sparare questa citazione, comunque Wittgenstein riconosce che è indebitato a Frege e a Russell. E a me. E naturalmente, non certo. Sapeva molto bene come scrivere. Non conosceva Forena. Il futuro. Conosceva il futuro, ma comunque evidentemente era indebitato a te. Ecco, con questa cornice di partenza vorremmo sentire le cose che hai da dire sulle influenze che hanno aiutato a conformare il tuo pensiero. Una prima influenza è proprio questa cosa che hai letto, sia l'autore che ho frequentato per un certo periodo, ma sia proprio questa frase che io non ricordo di aver letto, però è molto probabile che io l'abbia letto e l'abbia memorizzata, e quindi uno dei cardini del pensiero metaculturale è proprio parte, è questa, no? Però non potrei garantire che la paternità è wittgensteiniana e non posso tantomeno garantire che la paternità è mia. Però io vorrei partire da un po' prima. Cioè, quando ero ragazzino, io ero già molto interessato agli insetti. Perché non lo so nemmeno io perché. So che mio padre mi portava, prima di portarmi a scuola, mi portava a pigliare le farfalle in un parco che c'avevamo sotto casa. Quindi, le mie prime letture, non più proprio infantili, sono l'opera Le Memorie Entomologiche di Fabre, che mi hanno accompagnato per molti anni e che tuttora giudico un libro straordinario, un interesse. Tutto se ne parla effettivamente, non è certo uno sconosciuto Fabre. Questo studio di Fabre, cioè del mondo degli insetti, mi ha portato molti, molti anni dopo a interessarmi abbastanza approfonditamente dell'opera di Conrad Lorenz, che anche questo non è certo uno sconosciuto, quindi non ho bisogno di dire altro. E da questa partenza, già di carattere se vogliamo scientifico, consegue un po' più tardi, penso che avrò avuto 12-13 anni al massimo, il mio interesse per la filosofia, che ahimè è stato frustrato in maniera brutale fin in sul nascere, perché mi pare nel 50 dovrebbe essere, ci fu a Roma un congresso mondiale di filosofia che era aperto al pubblico e io, ahimè, mi sono trovato tra il pubblico. Ho sentito questi grandi pensatori, non so chi fossero naturalmente, della contemporaneità, parlare di problemi filosofici che effettivamente pensavo che non gli fregasse niente a nessuno. E quindi ho avuto un impulso di ripulsa nei confronti della filosofia in generale e mi sono giurato che non mi sarei mai più occupato di filosofia, questo a 12-13 anni. Questo non... 22-23, perché nel 50 avevi 22-23. Allora è prima, è nel molto 40. Prima. Allora sì, forse era nel 40. No, era dopo, perché io sto parlando di questo convegno, ma non è più l'età di quando avevo 12 anni. Ah, vabbè. No, erano 10 anni dopo. Quindi no, gli anni 50 credo che fossero. Va bene, negli anni, sempre mi pare, sì, proprio nel 50, invece ho intrapreso gli studi universitari di fisica. Avevo fatto prima un anno di medicina a Milano, perché così sarebbe piaciuto a mio padre che io facessi medicina. Però mi sono accorto che l'unica cosa che mi interessava a medicina era l'ora di fisica. E quindi ho deciso di cambiare e sono passato a fisica, dove sono rimasto per ben 5 anni. È inutile che adesso vi parli di questi 5 anni. Dico una cosa sola, che alcuni dei professori che frequentavo allora erano pochissimi. È da pensare che alla facoltà di fisica, quando l'ho fatta io, eravamo in 5 in tutti e 4 gli anni. Oggi sono centinaia, credo. No? Vabbè. Dunque, dicevo, uno di questi professori in particolare sosteneva che io avessi una buona mentalità da fisico. C'era un piccolo nero che sbagliavo tutti i calcoli. Effettivamente tuttora ho difficoltà, per esempio, a sommare 37 e 25. Se passate domattina forse ve lo so dire il risultato, però ho bisogno di concentrazione, eccetera. E questo è un grave handicap per chi volesse fare il fisico. Quindi ho lasciato fisica, però non di interesse per la fisica, tanto è vero che molti anni dopo, io vedo qui in questo appunto che mi sono fatto, quindi in tempi recentissimi, ho ripreso gli studi matematico-fisici, sempre senza capire un tubo di quello che dicevano in campo matematico, però in qualche maniera intuendo di che problemi si stava parlando. E il passo successivo non è di tipo scientifico, ma di tipo letterario. Siamo, dovrebbe essere intorno al 53. Petrassi, che era il mio maestro di composizione, mi regalò il, come si chiama, il Dr. Faustus di Thomas Mann, che restò per alcuni mesi sulla mia scrivania senza che io lo toccassi. Poi ho avuto l'avventura di aprirlo e da allora per 30-40 anni era quasi la mia unica lettura, è stata Thomas Mann, di cui ho approfondito un po' tutti i libri, i maggiori libri e soprattutto tutta la sua problematica. Mi sono anche laureato tanti anni dopo, ci ho messo 6 anni a laurearmi, quindi quando avevo 30 anni, con una laurea su Thomas Mann e la musica. È un argomento questo di Mann e la musica che era stato trattato prima di me da Giacomo Manzoni, un altro compositore più giovane di me, ma non di tanto, e che aveva trattato questo argomento in maniera, credo, più seriosa di quanto avessi fatto io. Io, per esempio, avevo sottovalutato l'apporto di Adorno a quest'opera di Mann, invece credo che sia stata molto importante, rilevante, e quindi fu proprio una mia disattenzione non occuparmene. Invece, come si chiama, Manzoni se ne occupò in maniera approfondita. Dopo la storia manniana, che dura, ripeto, per decine di anni, naturalmente queste indicazioni che sto dando adesso si sovrappongono. Per esempio, l'impulso degli insetti mi è rimasto, ce l'ho tuttora, e tuttora mi occupo di entomologia, di insetti, e anche di etologia, di comportamentismo, quindi. E questo parte tutto dai primi. Quindi queste cose man mano si sommano, così gli studi di fisica non li ho più condotti in maniera universitaria, ma sono sempre stati paralleli a tutti gli altri miei interessi. Dopo la storia di Mann siamo arrivati ai francesi, alla cultura, come si chiamava, Nouvelle Vague, no? Non mi ricordo bene. Era un po' la cultura guida, la più avanzata di europea, e io pensavo che lo sarebbe rimasta per parecchi decenni. Viceversa, poi c'è stato, non si sa come, una obliterazione di questa meravigliosa cultura francese degli anni. Che anni siamo? Anni 70, primi anni 70, e tutta la Francia si è mossa verso destra e verso una sorta di ottusità mentale. E questi studi riguardavano soprattutto i problemi della comunicazione. Io ero abbonato a un paio di riviste, una si chiamava Communication, non so se esiste ancora, un'altra collegava gli studi miei musicali, gli interessi musicali agli interessi per la comunicazione, ed era la rivista Musique en Jeu, anche questa una bellissima rivista di quegli anni. E questi, diciamo, questo interesse per la nuova filosofia francese mi portò a Foucault, per esempio, le parole e le cose, le mots, les choses, no? Che mi è sembrato un libro straordinario, che ha influenzato moltissimo il mio modo di pensare. E dopodiché ci fu tutta una stagione, non so di quanto tempo, di parecchio tempo, in cui mi sono dedicato a studi di logica, anche se non ho mai, diciamo, acquistato una dimestichezza con il linguaggio della logica formale che mi permettesse di leggere qualsiasi testo, ma comunque l'interesse c'era, e come anche per gli studi di linguistica, che in quegli anni erano floridi, e semiotica generale. Ricordo in particolare il trattato di Eco, che ho letto e studiato con molta attenzione. Naturalmente tutto questo mi ha portato contemporaneamente, direi, all'amore, direi quasi, per il pensiero di Wittgenstein, che tuttora non mi abbandona. Ho letto con, diciamo, con entusiasmo sia i due maggiori libri di Wittgenstein, come si chiama, Philosophische Untersuchungen, no, quello è il secondo, come si chiama il primo? Il Tractatus. Il Tractatus Logico-Filosofico, sì, e Le Ricerche Filosofiche, che è l'ultimo. E tutte e due, per un verso o per l'altro, sono state di enorme importanza per me. In seguito c'è stata, in tempi abbastanza recenti ormai, e anche recentissimi, una ripresa dell'interesse per gli studi matematici e fisici in particolare. Per esempio ho acquistato, non oso dire più che questo, il ponderoso libro di Penrose sul stato attuale della fisica, di cui non ho capito praticamente nulla, ma non tanto per demerito mio, quanto per demerito dell'autore, il quale non si sa bene a chi si rivolge, perché è un libro incomprensibile per chi non fa quegli studi specifici. E credo che per chi fa quegli studi specifici, non dico che sia acqua fresca, ma sia, insomma, un compendio utile, ma non so. Quindi non so dare un giudizio, non mi interessa dare un giudizio sulle cose. Comunque ho tentato di capire Penrose, non più che tentato. Invece l'incontro, per esempio, con Feyerabend è stato diverso, nel senso che mi sono ritrovato, diciamo, con il suo pensiero anarcoide, abbastanza d'accordo. Ci sono tanti punti di riferimento che però, diciamo, non posso dire di aver desunto da lui, in quanto erano, quello che a me sembra la cosa più interessante, erano delle convergenze, cioè una cosa pensata da me o da altri converge con cose che invece hanno pensato altri ancora. Io penso che appunto l'argomento delle convergenze sia uno dei più interessanti, anche se non so quanto studiato, che poi ha portato alla mia convinzione di sempre che il pensiero non è una proprietà individuale, né un prodotto individuale, ma è un prodotto collettivo, un prodotto che possiamo dire viene dall'aria e di cui non ci rendiamo bene conto quali siano le radici, ma non è nemmeno importante. E così siamo ritornati alla citazione iniziale di Wittgenstein.